perché per un dettaglio evidente, perché l'antenna si può staccare, tutto lì. La norma dice che praticamente tutti i PMR ad uso libero devono avere l'antenna inamovibile, cioè che non si può svitare, non si può togliere in alcun modo. Se si toglie già sei fuori, capito, quindi sanzionato. Sì, quello lo so, quello è palese. No, non parlavo nemmeno più di PMR, parlavo proprio delle apparecchi amatoriali in sé, no, eccetera. Addirittura non so se uno possa metterseli accesi in una vetrinetta, perché accendendolo, anche senza antenna, stai collegando all'alimentatore, a seconda di chi si gira, dice no, ma qua, qualcosa di più. Infatti, c'era qualcuno che ha detto, ma cosa sta dicendo, non so a chi fosse rivolto, ma a me arriva anche basso. Io l'ho detto, ma cosa, uno lo usa, ma non è che, cioè, alla fin fine cosa può fare un portatile del genere? Io per esempio non entro mai in certe cose, io entro sui PMR, basta, nelle PD qualche volta, ma io sono sempre PMR, cosa vuoi che faccia un portatile? Non è manco di incubate. So già cosa dirà Gianfranco, che anche portatile, anche con pochi watt, potrebbe fare molto danno. Scusa una cosa, ma tu hai studiato elettronica, anche le basi, emissioni di frequenze, poi le altre cosette che ci sono, band plan e compagnia cantante, qualcosa ne sai? Già la so qualcosa, ma lo so che non si può, bumba. Ma se uno c'ha il Baofeng, lo usa correntemente e non rompe le scatole, ecco, uno non vedo dove sia il problema. Ma scusa, cosa significa lo usi correttamente? Perché io non lo so, perché so già innanzitutto uscendo più della potenza consentita, poi non è un PMR, cioè o meglio non è un PMR per l'uso sulla frequenza PMR, quindi sei abusivo a tutti gli effetti, capito? Vabbè. No, ma questo è un discorso generalizzato, Anto, non è certo riferito a nessuno, né a te, né a nessuno, capito? Niente, stiamo divagando un po', dai, la serata è fatta, fra poco ci sarà qualche film da vedere, eccetera, così, dai. Ma con i 27 si buisce a 50 watt, ma lo fanno, manco ogni cosa si può uscire, è così, basta che non fissi pure dal seminato e sì, io ce l'ho il Baofeng, lo uso la verità, però non vado a disturbare nessuno, mi faccio la mia chiacchierata con gli amici e basta. Sì, registrato, c'è qualcuno che voleva entrare. Guarda, a me personalmente, se lo dico chiaro e tondo, non è che mi rifrigga, anche ognuno è libero di fare quello che vuole. L'importante è che se poi, come spesso accade, non faccia la sceneggiata napoletana e dice sì, c'è l'apparato, mi hanno messo, che ne so, 300-400 euro di multa, basta, appunto, però sapevo quello che... Un po' quando lo faccio anch'io, devo dire, corriamo a tutta velocità in strada anche oltre il limite. Se c'è l'altro velo, si pizzicano, ti fanno verbale, però sapevi che c'era il limite, quindi non parli nemmeno, capito? Lo facciamo tutti bene o male siamo stati un po' abusivi. Però l'importante è che lo dica, sì, lo so, è rischio, punto, poi se va male, pazienza. Capito, il discorso era solo quello, però non si può dire sì, ma si può usare, sì, ma forse no, quello no. Ok, avanti il break sul 10. Buonasera, circolare. quante cose che dice, Madonna Santa. Allora, 27 luglio è uscita sulla Gazzetta Ufficiale che non paghi più concessione al baracchino e poi usa anche PMR, innanzitutto. E molti radiomatori, penso lo sia anche tu, non so, comunque, sono un po' incavolati perché loro continuano a pagare la loro tassa. Ma cari radiomatori, voi avete il ponte ripetitore. Noi CBIO, che è PMR, non ha nessun ponte ripetitore, come mudo la mudo e pazza. Giustamente, come dico, comportarsi bene nel senso di essere educato, quello che vuoi, al mille per mille, perfetto, ok. Non è che uno dice non puoi modulare per la multa, quella... no, sono tutte quante magerie che dicono, ma non so se l'hanno detto il radioamatore o chi l'ha detto per far spaventare a chi. Io ho anche un mitragliatrice qua in casa, avanza, non lo uso, però se mi metto in casa mi paro, che ragionamenti sono, cioè non sono discorsi che non pagano niente. È uscita la legge, non l'ho fatto mica io la legge, l'hanno fatto il governo, il ministero delle comunicazioni. Se è così è così, non si paga a pazza. Un PMR cosa vuoi che facci? È una frequenza dove non disturba nessuno, non ci sono radioamatori, anche se è vicino o quanto è distante, non lo so, comunque non disturba nessuno. Ti si muove, non è a tutta questa potenza, non sento neanche Alghero, si può dire io, ah io dai, non sento nessuno, sono usassari. A me da qui cosa può fare un PMR? Niente. È forse inferiore al baracchino, perché il baracchino ascolti a molto di più. In PMR no, portatilino lo fa Zinuzza. Ok, scusate, ma avevo voglia di intervenire e dire su questo, è la pura verità, c'ho qua anche il foglio della Gazzetta Ufficiale, io non so sbagliare, ma qui. Riprendete. Sì, posso, forse sì. Ciao Tonino, ben ascoltato a quest'ora, non immaginavo che non ti ho mai sentito a quest'ora, ecco. Sì Tony, hai letto la Gazzetta Ufficiale, peccato che hai letto le prime due righe, tanto è vero che se leggevi anche le altre, quelle che stanno pubblicando infatti molti negozi, tu guardati ad esempio il distributore italiano di molti PMR che è l'Advantec, che specifica sono PMR eccetera eccetera, potenza 500 mW di uso attualmente libero secondo la normativa, la Gazzetta Ufficiale che hai detto tu eccetera eccetera eccetera, fermo restando tutti gli obblighi relativi sia alla potenza sia al tipo d'apparato e sia all'inamovibilità, quindi anche dell'antenna, quindi deve andare in parlato proprio, deve avere il gommino, tutto lì. Poi, come hai detto, tu c'hai la mitragliatrice, io posso avere il cannone, però siccome io so avere il cannone e quindi me ne assumo la mia responsabilità, tu c'hai la mitragliatrice, te ne assumi la tua responsabilità, però non puoi andare a dire in giro come facevano quelli là, no? Del Senato che hanno pizzicato, che si fregavano i soldi. Ma tanto lo fanno tutti, sei ladro se lo fai, non è un buon motivo che lo fai anche tu, perché lo fanno tutti. E così, poi sai, sono tutte opinioni, ma giusto per chiacchierare. Sì, ma in effetti dico questo, per me qua sinceramente manco 500 mW, anche qualche uno che sento, c'è Alghero, io non sento nessuno, anche lo mi senti, nulla, cioè, a non arrivare con il baracchino però ci arrivi, buono buono 5 W ma ci arrivi, dico nulla, quindi io penso che sarà una potenza talmente piccola che si può parlare solo, diciamo, la mano a cittadina, dai, cosa vogliamo dire, non c'è dire altro. Quindi, vabbè, comunque, sì, ripeto, quello che ho, ripeto, il culo al cardellino che è casa mia, pura, a parte che è tutto quanto blindato, diciamo, con i ferri, eccetera, che sono abbastanza grandi, eccetera. E poi quello che c'ho in casa, io penso che nessuno dovrebbe venire qua, perché c'è manco, forse Gesù Cristo solo saprà che fine farà, perché io non vado a denunciare, io dopo questo tutto e vabbè, comunque, no, stavo ascoltando, ripeto, fa piacere anche ascoltare molte cose che... è venuto, scusate, l'intromissione, c'era qualcosa che non mi piaceva, non mi andava, cioè nel senso che se c'è uno che è un po' inesperto in Skype, ci mette la multa, quello che l'altro si spaventa, se ne scappa, non deve scappare nessuno, è uno che ha un PMR portatile come ce l'ho io, talmente piccolo che con l'antenina di gomma di 10 centimetri. Se ti ascolta bene, sulla pazienza, ci parli con quelli vicini tuoi e finisce lì. Non penso che ci sarà qualcosa di grave, diciamo, per queste fesserie qua. Certamente, come dicevo, sì, i radiatori hanno un potere di storia. Beati loro. Un domani vuol dire che se ce la farò anche io a studiare, me lo prenderò anch'io il patentino. Sulla pazienza, domani dopo la 27, come sono nato, morirò. Tutto qua. Avanti, chi c'era qua? Marco, poi... Ehi, ciao Tony, Marco e Bombolo. Ehi, sì, no, ma io già ho capito cosa vuol dire Gianfranco, sì, quello cioè, parla dei... non c'è più da pagare i 12 euro, non c'è da fare la dichiarazione attività, e poi sempre valgono tutte le cose di prima del PMR, poi che così il Baofeng in banda PMR è un'altra cosa. E beh, d'altronde, quello che hai visto l'altro giorno, ci avrà una ventina di watt. Il problema è che non c'è antenna, io ce l'ho al piano terra l'antenna. Ecco perché non entro mai, perché tanto sento solo quelli forti, i forti, no? Però se c'è qualcuno con l'antennino non sento nulla, per quel discorso famoso che sia i portatili sia i veicolari, quelli economici, vengono saturati dalla radiofrequenza, quindi perdi tutti i segnali medio-bassi. Invece, per esempio, se avessi preso, che ne so, quello di Pomponio, quello buono, quello Iesu, quello problemi di sorta di ricezione non ne ha, anche con antennoni X300, X500, tutte quelle là. No, a me interessava la storia della detenzione solo, no, perché siccome i radiatori sui forum si scornano, no, solo detenzione, cioè comprare e tenere in scatola. Certi dicono no, si può, non si può, cioè nemmeno loro hanno un po' le idee chiare, oppure lo fanno per partito preso. Capito? Cioè vanno uno contro l'altro per così, per partito preso. Radiatori non di qua, anche in continente, nord, sud, centro, tutto, da tutte le parti ce n'è. Riprendi Antonio per i saluti. A Tonino. Cappa, saluto di Tonino Kawasaki, buonasera. Ma io mi compareggio un apparecchio, fatto 30 la cattura, non lo compro nemmeno. Già è una cazzata, chissà. Cosa lo compro a fare, scusami. Io lo uso, io ce l'ho, la verità, non me ne ha puttinuta di dirlo, io ce l'ho, lo uso con dovuti modi, mi piace farmi la chiacchierata e sono contento così. Ciao Antonio, comunque, sì, hai ragione. Io ripeto, questo Bonfè piccolino ho preso da un carissimo amico che insomma aveva bisogno, per il prezzo che me l'ha dato regalato, l'ho messo da parte, ho ascoltato qualche volta, ci parlo qualche volta, ma tiro, guarda, anche nel suo 27 quasi qua sono più entrato. Qualche volta ho talmente tante quelle cose da fare che comunque adesso da lavoro sono stanco e farmi tante cose in casa e quello per l'altro non mi viene neanche voglia, mi guarda così così la televisione, mi addormento un po' la notte. Se io entro qualche mezz'ora o un'ora per a volte ascolto, lì non entro neanche, mi piace il poesia che fanno, lo vado lì, mi piace adesso entrare e salutare anche gli amici, giustamente, dire la mia, tutto qua, non è che faccio male a nessuno. Poi ovviamente se c'è qualche disturbo mai, non sento, spengo e mi porto la televisione, almeno la televisione nessuno mi impedisce di guardare certi canali, tutto qua. Ok, avanti Gianfranco. Sì, qua continua una tempesta, oggi non vuole proprio passare. Tutta la sera con questo vento forte, dice che no, domani o dopo sarà veramente micidiale. Speriamo bene. Sì, Tony, è così, ma d'altronde, adesso io lo posso dire perché lo sai, no? Sono anni che opero in UHF, VHF, quando ero più giovane anche in SHF, oltre che in HF anche. Quindi qualcosa lo so dopo, mamma mia, non lo voglio dire. Fammi fare il caso. Potrebbero essere anche 40 anni, dopo 40 anni di radio, mamma mia, Tony, non ci credo neanche io, 40 anni. Vabbè. E quindi so, diciamo, per tante prove che quegli apparati da 500 milliwatt non vanno lontani per quello che riguarda il CB, per un uso CB non vanno bene, vanno benissimo per l'uso per cui sono nati, quindi per collegamenti a in città, e sto parlando a distanze piccolissime, tu pensa che con 5 watt già ci sono dei problemi in città da una via all'altra, ma veramente grossi, poi dipende da dove sei. Se ti fai una passeggiata in una pinetta, ad esempio, con portatile, anche da 5 watt, è un casino, perché il pino, ad esempio, ha quelle frequenze, si assorbe tutto, fa un'attenuazione micidiale. E quelli sono fatti per comunicare da un piano all'altro, da un palazzo, col palazzo di fronte, eccetera. Mentre invece per chi è in alto, tipo se te lo porti a Osio, io ho fatto questi esperimenti, non, siccome linea ottica, con 500 mW non c'è problemi di contattare, che ne so, Alghero, Porto Torres, scopre quasi tutta la zona. E questo da esperimenti fatti. Quindi imbattono in ottica tutto lì, come d'altronde anche gli altri lì, quelli LPD ancora peggio, quelli c'erano appena 10 milliwatt e poi erano anche sulla frequenza che usava la polizia di Stato, casinare da nulla c'era. E tutto lì. Poi, ripeto, ognuno può fare quello che vuole, però poi è giusto che sappia almeno cosa sta comprando. Riguardo a una coperta bombolo, poi ognuno se lo può comprare un PMR, l'importante è che sia un PMR tutto lì, se no poi si corre il rischio magari di fare come è capitato a qualcuno, che gli hanno messo la multa perché non stava usando un apparato non conforme, tutto lì. Così, riprendi Marco. Io ho letto nel 2017 erano stati depenalizzati, cioè avevano tolto il penale per questa storia delle radio, o l'hanno reintrodotto, cioè c'era solo la sanzione amministrativa, è corretto o meno? Sì, quello è corretto, è stato depenalizzato nel caso, però non costituisca reato maggiore. Ti faccio l'esempio, quello di cui stavate parlando prima, credo, con Claudio, quel rompiballe che distruggeva il link nazionale, no? Ovviamente purtroppo non è solo uno, però uno di quelli lo hanno pizzicato con questa motivazione, perché il CISA, che si occupa di protezione civile, quel ponte era di loro, operavano anche per conto della protezione civile, in caso di calamità, eccetera, eccetera. E quindi il giudice ne ha preso atto e ha detto, quindi questo, oltre a andare, un radioamatore tra l'altro, oltre a divertirsi a mettere portanti, a disturbare, eccetera, impegnava continuamente anche un ponte riservato per un'eventuale emergenza. E quindi l'hanno castagnato a 360 gradi, ma quello si dovrà, tra avvocati e cose, penso che si prenderà non più le radio ma anche la casa. Quindi l'hanno sistemato. Però anche ieri, anche avanti ieri, ti avevo detto, se non sbaglio Marco, guarda, stiamo parlando tranquillamente, due della Campania, le stavano rompendo le scatole a 360 gradi, quindi anche lì è una guerra continua, guarda. È un macello. Riprendi bombolo, riprendi. Scappa, ma io dico, ma chi sono castigato che stavate parlando adesso? Ma ti pare che io oltretutto vado a attacco Lignaroni, oltretutto la corrente che consumi, per andare a rompere le scatole. Dico, ma che cervello hai? Ma sicuramente quello lì era un demente. Alla fine, come tutte le cose, sì, lo castagnano, le fanno, ma lo lasceranno anche perdere, magari lo capiscono che è macco pure. Cioè, perché una persona di te non può essere sana, ne prenderanno tutte le radio, ci porteranno tutto e ne finisce. Aspetto io. Ho visto la portanza, no? Che volete dare? Stavo uscendo di radio, sì. Sì, beh, qualcuno, non so, è entrato involontariamente, forse due o tre colpi di portante, non so se uno voleva entrare oppure, non lo so, chi vuole entrare su 10? Anche prima, quando era entrato Claudio, 15-20 minuti fa, sotto di lui, due passaggi, ha fatto sentire, da premere a vuoto, e non se ne esce, dai. Anche tra radioamatori si scannano portanti in 80 metri, in 40, in 20, in VHF, in UHF, è tutto così, sono magari ancora i vecchi di 20 anni, 30 anni, 40 anni. Noia, vabbè. Comunque Giafra, come ha ricordato anche la cosa, tanto che lui ha detto i 40 anni. Giafra, io sono entrato il 23 marzo del 1974, avevo la bellezza di 20 anni. Dirò che non mi nascondo e non mi vergogno di dirlo, ero il casinista numero uno, la collina del mio corso. Quando sei ragazzo fai il casino che vuoi, capito? Lo usi come lo usi. E poi andando degli anni impari a crescere, capire tante cose, dire cazzo quante cazzate che ho fatto. Vabbè. Tutto è perdonabile, diciamo, quando sei ragazzo. Ma che uno abbi 40, 50 anni e usa ancora mettere la portante, per me con lì della vita non ha mai capito nulla, zero. Quindi è da non considerarlo una persona civile, incivile se mai. Avanti Giafra. Ma guarda, per dirtene un attimo, di quell'epoca a me è capitato di parlare con chi andava a fare, con chi faceva questi controlli, no? Mi ha detto siamo andati in un certo paese perché ci hanno chiamato, perché questo, credo che avesse un baracchino, no? E trasmetteva mezzo paese, era senza televisione. Si può dire che noi siamo andati così a tirarle le orecchie, sono andati e questo le ha detto no, voi qua non c'entrate, eccetera, eccetera, eccetera. Ma lei è il signor Tizio Caio, titolare di concessione? Sì, non faccio tale, sono tutto in regola. Tutto in regola, non mi rompete, insomma, ha risposto in maniera garbata. Vedete, si sono messi fuori, non se ne sono andati. Hanno chiamato i carabinieri, quasi così, eccetera. Tra l'altro quelli rivestono anche il ruolo di pubblici ufficiali, quindi non li puoi neanche insultare. Comunque le hanno bussato alla porta, il carabinieri, buongiorno carabinieri, ci fa aprire perché sennò chiediamo un mandato al giudice immediato. Ma tanto non ho trovato niente. Sono andati e in effetti non hanno trovato niente. Le sollevano la coperta del letto e sotto c'erano tutti gli apparati, eccetera. Ma questi erano così, sì. Guarda che abbiamo tutte le registrazioni, il posizionamento che ci hanno fornito le apparecchiature, eccetera, eccetera. Le hanno messo, non so, cioè l'hanno fatto grosso a questo, e questo nella provincia di Sassari è successo. Hanno fatto grogo e sai cosa mi hanno detto? Questo fesso, noi in realtà ci siamo andati sopra le guardie, non rompa le scatole, non usi il potenza, trasmetta tranquillo, pacifico, e nessuno dice niente perché non li disturba i televisori, capito? E invece no, ha fatto il docu, un po' come succede anche il post blocco, se ti dimostri gentile eccetera ti mandano subito via, se invece dice cazzo ma questo è fermato, c'ho fretta, e allora ti bastona. Quindi non è stato neanche il fudo, perché proprio gente tonica, come hai detto tu, non ha capito niente della vita, capito? Spesso un atto di gentilezza, di educazione viene molto più apprezzato di questa prepotenza che purtroppo anche ai tempi nostri è dilagante, però contenti loro. Riprendi Marco. Sì, e purtroppo quella è la tattica da adottare, perché se li incattivisci è peggio, e siccome, per carità, mamma mia, non mi ci fa pensare. Vai Tony. Ti stava chiamando. Marco, l'hai sentito? Ma non chiama, c'ho lo squelce Tony, aspetta che è abbasso. Chi è che chiama? Ciao Eugenio, ben sentito, uscendo da lavoro. Ciao G, minimo ci sarà il mare in burrasca, spettacolare a vedersi, lo so, però mamma mia, Adesso sento meno 20, no, meno un cavolo, già ce n'è ancora, però a ondate, diciamo. E comparei Tonino, Bombolo, Gianfranco, vediamo se ti sente Antonio Bombolo con l'antenna, con la... non mi ricordo come si chiama, la bazooka, vai Antonio. Lo sento nel mezzo QRM, lo sento. Buonasera, Eugenio da Porto Torres, mi senti? Mi sa di no. Vabbè, Gianfranco, oddio, Gianfranco è un po' negativo per alcuni punti produttori. Vai Gianfranco per Eugenio. Ciao Eugenio, ma probabilmente non mi senti. Io lo sento, però con S2 appena. Riesco a capire anche quello che dice, però dubito di arrivarci, anche perché c'ho un'antenna che sta ballando in tutti i modi possibili e immaginabili. Quindi niente, vediamo. Tonino stava sempre, Tonino? Beh, io lo sento anche prima, ho detto che sarà chiamato Marzo. Santiago 95 di Virginia qua. Ciao Virginia, mi hai sentito, Tonino Cavasecchi. Avanti Virginia. Ciao Eugenio, dai, buona cena, buon tutto, ci sentiamo le prossime, non pigliare freddo, mi. Ecco, freccia mi senta a me. Bene, bene, ok, sì, io comunque vado, no, sì, sto innescando perché adesso faccio mai che sto innescando un po', perché sono troppo vicino al baracchino. Io, di voi non è mai fatto vita mia, ho avuto la fortuna, diciamo, anche la vita prima, adesso avete campagna... Sì, ce l'ho vicino a tutte le villette qua a fianco, però non disturbo nessuno. A fianco, insomma, sono 50 metri, 100 metri. E non disturbo nessuno. Certo, se disturbavo, cercavo di vedere. Ma grazie a Dio ho avuto la fortuna che non disturbo. Poi, è quello che entro io. Tutto qua. Allora, scusa, ero i bei tempi quelli Marconi, ti ricordi quanta gente che c'era sulla 27, no, adesso c'è un po' di meno. Riprendi Marconi. Ehi, ci facevi, avevi difficoltà a trovare un canale libero alle volte. Comunque ti dirò che io preferivo la 27 degli anni 80, perché io vabbè sono entrato nell'84, ai social di adesso, tipo Facebook, quello che ti devi mettere tutti i cavoli tuoi, foto personali, foto di famiglia, cioè certi mettono tutta la propria esistenza in piazza. Cose anche personali, non mi piacciono a me i social, sono cose un po' ambigue. Copiato? Sì, pensavo che avrei preso la Gianfranco, ho copiato ormai. Sì, in effetti, vabbè, poi ho fatto un po' di bianco di 10-12 anni circa, per tanti altri motivi, perché allora io cambio sempre, capito? Mi sono preso l'ubi della moto, l'ubi di computer, tanti ubi, eccetera, eccetera, il Fiverr Day, insomma, ne ho cambiato tanto. E mi spiego perché io cambio ogni tanto. A me avevo l'ansia, ma questa ansia, il dottore mi ha detto, no, io fastidio non te ne do. Non devi togliere te stesso, devi essere forte te stesso. E cioè, cosa vorrei fare? Cerchi qualche cosa, mi sono dato anche la pezza, a biliardo, ho fatto quello che volevo io, due medaglie d'oro, tutto. E niente, ci chiudi, va, eccetera, sono usato la cambi, ma il dottore aveva ragione, buon'anima che non c'è più adesso. Io cambiavo sempre ogni tanto, due, tre anni, eccetera, ho fatto, per chi non fa di che tempo. Niente, l'ho ripreso perché basta con la moto venduta, con computer spedizionato molto meno. Sì, in effetti, ma qui c'è ragione, fatto di nome, cognome, diritto, dove abiti, dice che non sei la foto, ma sono sopra. Quindi sono tutti di tutto di noi. Tra l'altro poi questo cavolo di persone che ti telefonano, oh, scusi, il numero che gli ha dato, allora lo prendono, allora tu vai al suo mercato, fai una tessera, devi compilare il fondo, se non lo telefono, allora lo prendono da lì. Quindi mi chiamo la folletta della luce del telefono, e tu vai, io ho il telefono, ne ha. Come no, c'era la sua madre, c'era la mia, ora non c'è più, quindi... non io perché ho un gruppo elettrologico e mi produco la corrente, c'era una stamattina che mi sono detto, ma non so quanto ti chiama queste persone, allora l'ho risposto male, stanno scherzando, e quindi tutti hanno e sanno e ascoltano e leggono tutta la roba nostra, i messaggi eccetera eccetera. Purtroppo è così, la psicologia è andata avanti e noi siamo andati a vedere che lo ci avanti ci ha fatto. Sì, e hai detto bene Tony, sanno tutto quello che si fa, sanno tutto quello che si fa. E ti rammenti tu, ma lo sai cosa mi è successo a me Tony? Che quando sono venuto a abitare in campagna, no? Abbiamo messo il telefono, quindi nuovo numero, nuovo tutto eccetera. Beh guarda, ti giuro, se n'è andato il tecnico della Telecom che aveva piazzato il telefono e mi squilla il telefono, io sarò a Telecom. Me ne c'è questo. Buongiorno, senta, vorremmo sapere se lei è interessato a questa, a quella, a quell'altra. Sono rimasto male, gli ho detto, ma scusi, tra l'altro era anche una voce straniera. Gli ho detto, ma scusi, a lei questo numero chi gliel'ha dato? No, ma sa, noi ce li abbiamo tutti, come ce li avete tutti i numeri? Ma sta scherzando, questo è stato attivato appena un paio d'ore fa e lei c'ha il numero. E alla fine mi ha chiuso il telefono in faccia, capito? Riprendi Marco. No, a me uno di questi dei call center di fuori, tipo Romania, mi aveva fatto sbarellare. Poi un motivo non me lo ricordo esattamente, ma sono oscillanti. Ti vogliono vendere un contratto alla fine, inutile che si facciano in giro le parole. Poi ho detto, posso parlare con qualcuno che parli nella mia lingua, perché questo poi si spiegava non bene, non capiva tutto bene, insomma. Aspetta, cosa mi hai ricordato Gianfranco? Ma tu te li ricordi negli Stati Uniti i selezionatori? Guarda che l'avevano fatto anche nei Simpson una puntata del genere. Degli apparecchi con messaggi preregistrati, no? Lui sistematicamente iniziava a fare i numeri di telefono in sequenza, no? Con l'uno finale, col 2, col 3, col 4. E praticamente oscillava un sacco di gente. Quelli avevano resi illegali negli Stati Uniti, mi pare, una cosa del genere. Ed erano come delle segreterie telefoniche, forse a nastro, no? Tu registravi il messaggio che volevi e questo cominciava, collegato alla linea telefonica, a chiamare in sequenza tutti i numeri da tot numero a tot numero telefonico e faceva ascoltare il messaggio a tutti, no? Sì, sì, non lo ricordo quello lì. E vabbè, adesso i call center fanno le stesse cose, però secondo me i numeri ne prendono anche non validi, cioè qualsiasi numero si può comporre, chiamano. No vabbè, di quelli di certi hanno i nomi però, perché chiedono del diretto interessato e vogliono sempre avere l'ultima bolletta per avere il numero cliente, capito? No, il codice cliente come si chiama. Sì, effetti ha ragione Napoli, perché ti chiedono la bolletta, lì sto pagando troppo, faccio ridotto, lì sto pagando troppo, e tu ti giro Martoli, chi è bolletta? Chi è? Non c'è più stato niente qua, è tutta la padrona, perciò tu sto pagando troppo, io non sto pagando niente. A mio collega quando l'avevo chiamato, ha detto, ma guarda che io col potere non ho, come non ne ha, non ce la luce lì, sì, ma io la mia campagna mi sono attaccato al teatro. E per una delle corrente, ho fatto credi. Sì, una con un atteggiamento del genere, dice lei paga di più, però dice, ma a me va bene così, dice, ah, a lei piace pagare di più, ho detto sì sì mi piace pagare di più, quando non c'è ne più soldi pazienza. Cosa devo rispondere? Sì, perché poi vabbè, i più truffaldini vogliono il numero, il codice cliente, ma magari firmano a tuo coso, cioè tu non dai il consenso e ti affibbiano un altro operatore, capito? E vabbè, veniva anche gente a casa a bussare, chi vendeva libri, chi vendeva contratti telefonici, venivano addirittura tutti con la targhetta tipo NASA sulla camicia, no? Noi siamo qua, dobbiamo leggere, non so, l'ultima bolletta, insomma le cose più disparate, adesso Tony non scendo nel dettaglio, ma se le studiavano tutte, guarda. alla fine tutto era rifilarti un contratto, o telefonico oppure di quello Mondo Libri o cosa era, che non te li staccavi più poi me. Ho te ne dico un altro ancora, subito rilancio l'antenna che parcheggio. A parte queste cose che chiamano per la bolletta eccetera, a me mi chiamano anche finanziaria addirittura, come per il prezzo, ma Marco gli dico la verità, un giorno mi ha trovato tutto, guarda, mi ha chiamato questo, ha bisogno del prezzo, però guarda, ascolta, sapete cosa faccio io il prezzo, mi dico cosa rispondo, no ma guarda, io te li faccio io il prezzo, non c'è problema, io non ho bisogno di prezzo, io sono già una finanziaria, mi dica, quanto rispondo lui, 10.000 euro, se mi porto la mattina in ufficio tu i documenti, mi ha chiuso il telefono. Una volta, sai cosa, vabbè, era venuto a questo ragazzo cagliaritano, no? Con la scusa di fare un sondaggio, io insomma mi ero nascosto nell'altra stanza, ne sono stato in silenzio. E mamma si è fatta spiegare tutto, insomma è stata mezz'ora spiegando, facendo qua, alla fine io conoscevo già il sistema, ti dovevano vendere un abbonamento a questo coso di libri, adesso non mi ricordo se si chiami Mondo Libri o come si chiama, insomma alla fine stava per far firmare mamma, no? Per questo abbonamento sono uscito dalla stanza, salve. Ho detto, ma lo sai che tanto non devi firmare nulla, no? Questo ti sta rifilando un abbonamento, non è un sondaggio, non è, guarda come hai fatto il foglio, eccetera. Che poi lo sapeva già lì, però stavo aspettando il mio intervento. Insomma, questo è stato mezz'ora e più spiegando cosa, mamma, si è fatto vedere interessato. L'abbiamo mandato via a mani vuote, devi vedere la faccia che ha fatto. Antonio, ripeti. Il capo invece molti anni fa passavano quelli a vendere roba, erano anche molto insistenti e c'era mio nonno all'epoca a casa. Questo qua stava insistendo, stava rompendo le scatole, stava vendendo, facendo vedere un sacco di cose. Mia nonna ha detto vada via, non voglio niente, cazzo, non fai lo sbaglio di mettere il piede nella porta di casa. Poi siccome mio nonno era fissato quel martello, infatti ce l'ho io quel martello lì ancora, ha preso il martello e bracuto nella tirato nel piede, gliela tirata tutta potenza e ci è uscito, cavolo, io sicuramente gli ha troncato gli ha troncato il piede, sicuramente gliel'ha fratturato, gliel'ha. Invece non so se l'avete sentito, questo pomeriggio prima di mezzogiorno, no? O intorno a mezzogiorno, accedo alla televisione per guardare Rai 3, che c'è il coso lì, il telegiornale regionale. Il telegiornale regionale c'era, peccato che non era quello sardo, era quello della Lombardia, non ho capito perché. E ha dato questa notizia di questa signora anziana, no? Che ha ricevuto la solita telefonata dalla solita tizia dei paesi dell'est. Sono disperata, mi servono soldi subito, guarda, per tua figlia, insomma, cose di questo genere. La signora ovviamente non ha si è allertata, perché è una donna intelligente con una certa cultura. Cosa ha fatto? Sì, quanto lo devo portare? Porti tutti i soldi possibili, ci troviamo sotto casa sua a quest'ora, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, ma non mi faccia spaventare, le porto subito su. Ha chiamato. si è presentata all'appuntamento e questa ha detto mi dia subito la borsa, sì eccoti la borsa con tutti i soldi. Non ha fatto tre passi che c'ha la polizia che è chiamato lì, ha messo le manette ed era una dei paesi dell'est, la solita randaggia, cercando soldi, capito? Quindi è stata più che in gamba questa signora, avrà avuto 80 anni almeno. Riprenditemi. Ecco, no, ma fa piacere dove di queste cose, queste persone ricche, dai, che non si lasciano abitolare. Amico, cosa è successo da poco? Come c'è un soffro cacchio di R nel disco, guarda, ne ho 3-4 testa. E mi hanno indicato questo qua di Antonio Pello, ma cosa fa che parte la mente? Di buona, che con l'agopuntura si fanno fare più dolore. Io con Manamone Ginko siamo andati a buona. Ma pure che ci 5 aghi in un ricchio e 5 nell'altro ricchio, come ogni ago che metteva, spingeva, girava, pareva abitando le viti, si bruciava, è un buon segno, comunque la prima spinta vedi già la differenza, ma piccola la verità, la polizia. E giù in prima, non mi è venuto niente, pagato 35 euro, io ho preso 5 euro, non gli hanno preso lunedì, alla prossima spinta. Lei il venerdì mi ha dato un messaggio, no, non venite lunedì perché non so che cosa, vi avviso io. Mi fa pensare che sono passate 2-3 settimane senza avvisarci, mi ha mandato un messaggio. Ma non sono nessuno di voi chiamati Pedro, ma pensi Marti, come vanno a Marti. Non solo ti ha preso per il culo, ma hai preso anche i soldi nero, senza farci una ricevuta. Comunque io adesso vado a mia cucina per un finanziere, vediamo. Ma se mi mandate a messaggi, ma non tutti i dati che mi lascia la fattura. Ed è scritto, tre portarsi, e ho chiuso il telefono. Sì, sì, avevo chiesto a Emanuele. Siccome ne avevo sentito parlare, forse in PMR, non 27, che dovevate fare agopuntura, siccome io lo stesso soffro di mal di schiena, però lì secondo me c'è poco da fare, lì ernia del disco e non c'è agopuntura che tenga, ma ha detto niente, non è che non ha avuto l'effetto voluto, diciamo, questa agopuntura. Secondo me è anche questione di suggestione, cioè ci sono persone che ci credono così ciecamente in quelle terapie orientali, queste terapie alternative, che magari la mente li autoconvince che stanno meglio, ma nella realtà non ci credo molto a questa roba, c'è poco da fare, certe cose si risolvono con terapie di farmaci, che già bene non fanno, vabbè, oppure bisogna operarsi per certe cose, non, da lì non se ne esce. Ma era una persona italiana o uno tipo orientale, cinese, giapponese, no? No, era proprio di buono lui, è anche molto giovane. Erano tante persone, noi ci abbiamo arrivato molto presto, abbiamo aspettato, e vediamo le persone entrando e uscendo, e quindi, santo, era stato fatto niente, visto. E niente, in effetti io volevo operare, però non sempre si offre dell'appuntamento, perché prima ho forse chiedo qualche la vista a Cagliari. L'operazione a me si segue con l'altro, non l'operazione perché mi ha fatto farla, perché sono cardiopatico, quindi assolutamente niente. E mio figlio mi ha detto, guarda papà, che questa agopuntura l'ho fatta anch'io per il magistrato, eccetera. E mi ha detto che era tanto, questa agopuntura sono, per ingannare il cervello. Però poi ti rivieni di nuovo, a me non mi ha ingannato per il dolore, a me non mi ha ingannato niente, che poi avevo dolore più e dolore mi è rimasto. Quindi, poi mi ha tenuto un po' la testa per cose, mezz'ora mi ha messo un sentimento, mezz'ora, cioè, e via che futuro, via che le infiate delle orecchie, ma no, guarda. Niente da fare, sono persone pagliacci che ci mangiano i soldi così, sono pagliativi che sicuramente chi ci crede, come stai dicendo, io no. Ero lo stesso sì, dico la verità, ma non era io, andiamo, ok, ci ho guardato, siamo andati, ma tu dici, ma non ci ho fatto niente. Perché, per me, l'unica soluzione, anche adesso non è del futuro, cioè, ci sta passando, fa dicono quell'altro, non è così, perché intanto, si fa il futuro, l'ho già provato anch'io, tutti l'ho provato, prendere i muscoli, voltare i muscoli, e altre punture che mi hanno fatto di 3 anni, mi ha fatto per 2 anni, e poi, punture da cavallo, e sono i grandissimi, la fiera era enorme. E però mi passa per 2 anni, poi mi ha dato un'altra cura cosa, potevo risolvere il dolore, io che accendono lo creato. E niente, poi la cura con le partite, questa cura poi l'ho rifatta da poco, io sono fatto 2 anni, e non mi ha fatto piccola. Quindi, niente, se l'ho operato, basta, io sono fare punture, partite, quella per l'altro, e la futura vuole 80 e basta, io ne ho 3, 2 piccole e una grande. E vabbè, non lavoro nessuno, però sto lavorando in questo periodo, guarda. Ogni tanto io mi devo sedere perché non ce la faccio. Vabbè, che se tutto va bene poi parto lì. Mi sono informato, io ho un 65% di invalidità. E ho saputo che l'Inps ogni anno, dal 74% di invalidità, io ne ho 5, fate conto, danno 2 mesi di ciclo da andare in pensione. Praticamente io devo fare ancora quasi 11 mesi, sono già in pensione. Invece ho recuperato, perché c'ho da 2015 questa invalidità, 10 mesi. E se tutto va bene, io adesso sono andato da patronato per cui, se va bene, io a ottobre vado in pensione. Avanti, Vattolini. Qui, e ti godi il meritato riposo almeno, tanto mi lavoro e poi, carità, come essere schiavi a seconda di dove finisci. Guarda come hanno trattato a Coso, a Polo Torres. Aspetta che avevo sentito una battuta di Bombolo prima, quando ho detto cinese e giapponese, cos'è? Ho sentito Antonio, ha detto vuoi cuttallan che chissà, cioè la cinese o la giapponese, così è? No, chissà con cultura può fatta, in mezzo all'anche può fatta, cosa cazzo? Ah va, che c'ho tutti i giarlatani. Ah, quello, no, avevo capito, credevo la cinese e la giapponese come femmina, capito? Oh, non lo so, qualcuno può darsi che, oh, come alcune medicine, a qualcuno li fanno, a qualcuno non li fanno nulla a me. Cioè tu dai una terapia a una persona, uno gli fa bene, a uno non gli fa nulla, può capitare, chi lo sa, ma è doloroso quando te lo fanno, gli aghi sono molto sottili. Sì, sono sottili, ma per me tra buono e buono, 2-3 centimetri. E lo senti proprio nella carne che ti gira. E poi spinge, poi riavvita, poi ti spinge, insomma, io stavo suonando un freddo, poi stringevo i denti, ma non ne aveva per colpa, non lavoro nessuno, ma no. Sono rimasto un'ora così io, poi cos'è che attaccati? Quando le ho tolte la verità, ma allora niente si. Proprio quasi zero. Sentivo come tu stai prendendo un pezzo di filo. Però io non lavoro nessuno, non c'è tanto che sono tutti quello che sono. Sento io. Avanti, già fa che ci può parteggiare. Beh, la acupuntura in se stessa è una scienza abbastanza collaudata, perché c'è da tempi immemorabili. Il problema, come anche nella nostra medicina, è chi la fa semplicemente, quanti medici ciarlatani hanno acchiappato senza neanche la laurea, dentisti, meccanici dentali, chi più ne metta. Di lì bisogna trovare qualcuno veramente bravo, perché è una cosa anche abbastanza difficile da imparare, capito? Quindi non è per tutti, ecco, come tante altre professioni mediche, sono molto complesse. D'altronde ciarlatani i cappini sono dappertutto, ci sono medici con tanto di laurea che hanno rovinato parecchie persone, eppure c'erano la laurea. È una questione di bravura e soprattutto di fortuna a trovare quello giusto. La fortuna in quel campo conta molto, perché se ti capita la persona sbagliata ti rovina tutto lì. Riprendi, Marco. Eia. Quella roba che vedevo a Milano lì all'Humanitas, come niente, cambiando dischi nelle vertebre lì, ordinaria amministrazione, c'è roba che qua non fanno minimamente, compreso quello che ho dovuto fare io, qua proprio non hanno né i mezzi né la preparazione, non si pigliano responsabilità, lì ce n'erano altri 3 o 4 che hanno fatto la stessa operazione mia, gente cambiando dischi se non ho capito male io, delle vertebre. A me ne ha detto, ma iniziavano a operare dalle 8 di mattina a turni e finivano alle 8 di sera, ci avevano molti ricambi anche di chirurghi, ma cosa impressionante, una fabbrica. poi il bello che voi mano a mano si guardava tutto intorno, c'è una camarotta stretta, questo bustino è stretto, e lui fa, non dice così, lo dice a voi, ma non è. Allora, adesso lui si è attestato, che io mi ero sottofatto, proprio ho fatto solo lavoro. Poi c'è questo, tra l'altro, se io voglio, oggi con la tecnologia moderna che c'è qua, con il mio telefono, mi cerco di non ti attestarti, me ne scarico il telefonino, io c'ho il wifi, me ne scarico il telefono attanto, esce e me ne convince. Ma adesso non ti attestarti se faccio i topi di tipo di turno, eccetera, e mi sa per tutta la casa, con gli attacchi, con questo guardo, quindi sei attestati qua così con l'altro che ci fate quello con l'altro. Io da principio ho soltanto lo mettere entro questi aghi, in che punto e basta, però in realtà non fanno niente, perché la verità è questa. Io ero pacifico, sono rimasto sempre il sito comunque. Mi ha dato la conferma di questo servizio. Ho fatto la sensazione Emanuele che ci ha mandato a Roma, tanti chilometri, ma nulla, vabbè che io ci vado anche a lavorare. E io la prima cosa che ho fatto, sono andato anche alla scuola, per conoscere e vedere che ci lavora tutte le scuole superiori. E dopo di questo altro capito, dice, ma lo conosciamo malamente, dicono che è bravo, è un differente, ma vediamo. C'è anche un GPS, dice che lui l'ha fatto e non ha più niente dolore, camminava piegato, Emanuele me l'ha confermato. Autostrada, ma io non ci credo, infatti, tanto è vero che Emanuele lui era più gordo di prima. Nella serie non tutte le ciambelle escono col buco. Infatti. Va bene, dai, signori belli, io ti guardo un po' di più, poi mi abbraccio Marseille, perché domani lavoro, anche domani, questa la settimana è finita, e mi ha attaccato un pochettino tutta la settimana, dai. E che ti posso dire, vieni tra mattina al servizio del Sabin, 4:30 scadono qua, è ormai la sua testa, e anche la domenica sono a lavoro e mi alzo presto, e se mi piglio qualche 2-3 giorni di ferie, mi alzo presto lo stesso, è l'abitudine quella e basta. Mi fa piacere aver fatto, diciamo, con compagnia anche a voi, e voi me l'avete fatto a me. Quindi saluto Antonio, saluto Gianfranco e anche Marco Mio. Vi ascolto per un po', finalizzo e poi spiego tutto. E ci sentiamo alla prossima volta. Grazie di tutto, buonanotte signori, statemi bene. Ripeti Gianfranco. Sì, ciao Tonino, allora buonanotte. A risentirci. Speriamo che io stanotte riesca a dormire, perché ho la testa a pallone, perché sono tutta la sera ascoltando questo fischio che c'è, causato dal vento, che continua a essere sempre forte qua, porca la miseria, si sentirà anche nel microfono quando parlo. Riprendi Marco? Assolutamente no. No, adesso non si sente, ma quando eravamo presto in radio, ma cos'ha, un merlo indiano, qualcuno che sta frusciando? Sembrava un fischio umano e poi non era un fischio tipo sibilo. Ma chi è che sta fischiando? Il vento con tutta la roba che ha, i radiali, antenne, capi e... E vabbè, dai, ok, caspita, alle 10 io ho tutto o niente, ce l'ho stotto magari tra la sera in radio oppure non entro per giorni, e d'altronde quando me la sento io posso entrare in radio, quando non me la sento non, al limite ascolto e boh. Ok, dai, ciao Tonino, buonanotte, buon tutto, a risentirci. E vai Antonio per i saluti. Papa, salutone Tonino, ce la risentiamo alle prossimine, dai, buonanotte. Anche io mi ritiro, dai, buonanotte a tutti, Antonio Bombolo, smette le trasmissioni, che faccio un pochetto di sonno, domani a mangiare la travaglia. Ciao ciao, buonanotte a tutti. Mi ha fatto piacere questa chiacchierata, era un po' di tempo senza chiacchierare così tanto e ascoltare. Ciao ciao ciao, buonanotte a tutti. Ciao Anto, buonanotte, alle prossime, dai, ciao ciao ciao. Vai Gianfranco. Sì, ciao Antonio, buonanotte. Ciao di nuovo anche a Tonino. Tra poco anch'io mi ritiro. Ah, mi ritiro, sperando di poter dormire, perché forse adesso non lo senti, ma però qualche senso, invece che deve peggiorare anche di brutto, speriamo bene. Ciao a tutti, buonanotte, aspetto. Ciao ciao. Ma peggiorare come? Di vento o anche di fulmini, pioggia? Se fosse di fulmini vuol dire che deve completarmi l'opera, già me ne ha fatto di danni. Probabilmente di vento, se non ho capito male, con raffiche anche di 100 km all'ora sembra, ma poi domani vediamo più nel dettaglio cosa succede. Vabbè, vediamo un po', tanto oramai, anche se nel calo le antenne chi se ne frega, non ci posso fare niente se il tempo cambia così. Oggi ha fatto una fazzone, non sono pure preso, quindi è meglio di così. Ma il computer ha danneggiati veramente o solo cioè cosa li ha fatto? Allora, sicuramente ha bruciato la parte dell'alimentazione, quella che fa, diciamo, che dà l'input per accendere tutto il sistema e dare corrente ai vari processori. Ergo sembrerebbe quindi che si abbia appiccato una bella scarica proveniente proprio dalla rete elettrica, perché qua è mancata roba di 4 volte la corrente. E ogni tanto schioccava, nonostante tutte le protezioni, è riuscito a farmi fuori il videoregistratore della sorveglianza, il computer, e poi non me lo ricordo, ha una telecamera, forse due, poi a parte un'altra cosa non me lo ricordo. Per il computer mi hanno scritto stasera, non ci sono problemi perché in garanzia. Certo non le dico che c'è un temporale. Comunque, poi il videoregistratore forse anche lui è ancora in garanzia, vediamo cosa si può fare. E poi, vabbè, l'importante è che non abbia attaccato i televisori, che dovrebbero essere più a rischio perché sono ovviamente collegati all'antenna TV, però elettricamente sono separati, perché a ogni televisore gli ho comprato una cartuccia che fa da partitore galvanico, capito? Però se la scarica è forte ne è da mettere di cose. Insomma, un po' di danno, dai. Ma fulmine è caduto relativamente vicino o lontano, non si sa. Un paio sono caduti vicini, abbastanza vicini, e hanno fatto tremare la casa e fatto saltare i termici, cioè il salvavita. Quindi quelli erano vicini. Ma purtroppo è un rischio che si corre, ecco. Anche in campagna si sa, sono delle zone che prende, delle zone un po' protette. La mia in teoria dovrebbe essere una zona un po' più protetta, perché per quello che ho visto mi avrebbe dovuto far fuori tutto quanto, televisori, impianto, tutto. Tu figurati che sono andato alla finestra per vedere un po' cosa stava succedendo e fuori era giorno. C'era un fulmine ogni secondo praticamente, perché si vedeva tutto, era con la luce rosa, no, che vedi, potentissima, avvagliante. Ed era uno dietro l'altro e poi arrivava il tuo di papà. I pericolosi sono quelli che fanno il botto, no? Quelli che vedi il fulmine e poi subito. Ah! Quelli ti fanno rintronare. Sì, infatti qua. Quando è che aveva piovuto ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, qua stacco proprio alimentatore, antenna, in modo che dalla rete elettrica non arrivino sbalzi. Vabbè, l'antenna sì, è inutile anche staccarla, perché se finisce vicinissimo, se non sul palazzo, credo che sia tutto inutile. Disintegrerà tutto ciò di elettronico in un raggio di 100 metri, mamma mia. è lo stesso per il computer portatile fisso, sulla carogna di computer rimasta lì. Stacco la spina dell'alimentatore, lo isolo dal modem, anche non sia che passi qualcosa dalla rete telefonica. Di più non posso fare, tanto insomma non ne vale la pena poi. Per te magari no, per me il discorso è più complicato, non si tratta di un baracchino, eccetera. Pensa che invece c'ho...